La tua Pasqua, o crocifisso Cristo di Dio, nel silenzio grondante luce e vita ricreata, e potenza trasfigurante del Paraclito, bellezza che incastona il nostro abbandonarci a te, nell'amoroso eterno tuo presente. Fatti fibre vive del tuo corpo mistico, trasumanati nelle tue ferite di resurrezione, agognanti il Padre, spinti ai confini del mondo e nel nostro qui, dal fuoco della tua missione. Alleluia.